Zolt. Fulminati in azienda. E brava la mia fonte! Ero certo che con la tua campagna mediatica il nostro prodotto X900 avrebbe vinto il premio migliore prodotto dell'anno. No, sono io che faccio i complimenti a te, La Porta. Hai sempre gestito al meglio le relazioni della nostra azienda con le più grandi firme del giornalismo. Grazie, grazie, è solo mio dovere. Un riconoscimento come questo determina in modo certo il successo di un prodotto. Speriamo, certo. Permesso, permesso. Avanti. Scusatemi, ma non posso non complimentarmi con tutti e due. Un risultato straordinario. Ma la nostra X900 è decretata dalla stampa il miglior prodotto dell'anno. FCS, finalmente ci siamo, sul pezzo orgoglioso di voi. Grazie, ma hai già scelto l'abito della cerimonia di consegna? Perché dovrai salire tu sul palco, Marco, già ti vedo vestito come Clooney a ritirare l'ambita statuetta. Vabbè, ma salgo io sul palco solo perché sono il direttore generale, naturalmente dovrebbe salire tutta la squadra, perché il merito in questo caso va spartito con molte persone. A questo proposito parlerò io con il produttore esecutivo della cerimonia, che è un mio amico fraterno, che mi faccia avere un invito anche per l'onorevole Carissimo. Sì, sì, che bello, anch'io voglio una foto in mezzo a voi, l'onorevole da una parte e tu, Marco, con la statuetta in mano dall'altra. Beh, del resto, in medio, statua virtus. Dottore, abbiamo problemi gravissimi al server. Ma va là, strano che in questa azienda abbiamo problemi col server, eh? Ho scientaggiato tutto, con tutte le lettere di reclamo dei clienti che hanno acquistato l'X900 che si è già rotto. Ma cosa dici? Come ti permetti? Va che la X900 è stato premiato dai giornalisti come il prodotto dell'anno. Stasera, tra l'altro, vado a ritirare la statuetta. Ecco, allora stia attento che non gliela tirino addosso la statuetta. Se c'è in sala uno dei clienti che ha comprato la macchina rotta, Marco, è una tragedia! Cosa una c'è? Tragedia. Cosa c'è? Anche tu non riesci a dire le mail? Ma no, ai tre giornalisti che hanno coordinato la giuria e che ci hanno dato il premio è esplosa a casa la X900 che gli avevamo regalato. Al caporedattore è stato ferito il micio col pedigree, un micio dal pelo tutto argentato. Vabbè, dai, pedigree, ascolta, un micio vale l'altro. Comunque, chiamami Pacco, anzi lo chiamo io Pacco. Dov'è Pacco? La medisi, dottore, com'è? Pacco, devi trovare tre X900 nel magazzino, prendere l'auto e portarle subito con le mie scuse al reparto Grandi Ustionati. Ah beh, a trovargene una sola dei X900 che funzioni. Ma come? E poi non che sembra che portare al reparto Grandi Ustionati una macchina che appena te la tocchi te ciappa fuoco in man sia un poco di cattivo gusto. Ha ragione. Cosa facciamo? Ma allora, guarda, mandiamo i nostri manutentori a sistemare le macchine esplose, che ormai loro hanno veramente una grandissima esperienza pluriennale di riparazione. Ma chi troverà a casa? Allora, intanto complimenti per l'idea, brava Fond. E poi chi vuoi che trovi a casa? Le mogli? No, Paco, si sa che le mogli dei giornalisti sono le vere opinion leader in casa e fuori casa. E poi sono sempre sensibili al fascino del manutentore. Grazie di cuore, davvero. Grazie amiche e amici. Sono veramente emozionato di essere stato chiamato su questo palco per ricevere questo importantissimo premio. È proprio fatto per il palcoscenico, a carisma. Un'emozione grande mi dà questo premio, il tubo d'oro, il premio per il manutentore dell'anno, eh? Sono contento di aver messo in campo una squadra di servizio e riparazioni che ha prestazioni senza uguali. Bella roba, adesso che tutti hanno capito che le nostre macchine si rompono sempre, cosa vendiamo? Vendiamo il calendario del manutentore. Chi potrà rinunciare al fascino del nostro servizio assistenza? Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.